24 mattino. Oh, De Luca. Adesso bisognerebbe, da parte dei governatori del nord, magari il Veneto, visto che contagi non ne abbiamo quasi più, no? E fare un'ordinanza che i campani non sono bene accetti, porteranno, come faceva lui con noi, Vediamo come la prende lì il signor De Luca, battutina facile, peraltro senza argomenti, dai, perché è solo per quello, offende perché non ha argomenti il signor De Luca, come al solito. Le linee guida per la scuola saranno determinanti per tutto, per tutto. Non è possibile che andranno a scuola distanziati, con mille attenzioni, mille vincoli, e poi magari faranno sport questi ragazzi dopo, uscendo dalla scuola senza alcuna attenzione. È impossibile. Questo è un paese dove se tu dai tre pecore a una persona, quella persona si sente un mandriano, mentre invece è solo semplicemente un pecoraio, non è un mandriano. La stessa cosa è successa con i virologi. Gli hanno dato in mano tre pecore e loro si sentono mandriani. E quindi comandano loro. Ah, mi sento un po' tosti questa mattina, un po' tosti. No, non condivido l'ascoltatore su De Luca, perché adesso non esageriamo, no? Non mettiamoci a rinfocolare di nuovo questa polemica tra nord e sud, che è francamente stucchevole e insopportabile, in tutta sincerità, è insopportabile. Adesso per questo caso di Mondragone, sul quale arriveremo tra un attimo, perché sicuramente è il caso di giornata, almeno a mio giudizio, per carità, In questo caso insindacabile, perché in onda ci sono io, quindi lo trattiamo come il caso di giornata, finita là. E anche sugli infettivologi, sui virologi, sì, c'è un po' di narcisismo, sicuramente, c'è un po' di... a un certo punto... convocati dappertutto, si sono sentiti molto forti, le persone dalle cui labbra pendevamo. E però, è vero anche che dalle loro labbra pendevamo effettivamente, e ancora pendiamo. Perché sono loro che stanno studiando queste cose, stanno studiando l'evolversi dell'epidemia, stanno studiando quello che succede, come si comporta il virus. Poi, per carità, sono mille errori di comunicazione, se vogliamo, e magari una mancata comprensione complessiva da parte degli italiani che la scienza non ti può dare. Il principio della scienza è il fatto che le cose appunto possano essere messe in discussione, ovviamente con delle prove, con delle ricerche, con della sostanza, però chiaro che non puoi avere in una situazione così complessa delle risposte univoche, non le puoi chiedere. E sulla scuola invece, caro ascoltatore, siamo perfettamente d'accordo. Vi aspetto al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, anche scritti appunto, i messaggi WhatsApp anche scritti naturalmente, molti vi siete scatenati su quello che ci ha detto Angelo Perrino prima di Affari Italiani sulle mascherine. Sappiate che io non sono d'accordo, l'ho detto anche prima, non sono d'accordo con Angelo, le mascherine servono per tutelare gli altri. Soprattutto, è uno dei motivi per i quali adesso ci permettiamo di riaprire, il fatto che stiamo adottando tutte le giuste precauzioni. Veniamo, è la seconda parte di 24 mattino, lo sapete, quella dedicata alla rassegna stampa, questo giovedì 25 giugno, nel quale i giornali si dividono molto sulle aperture. Perché se Repubblica e Manifesto scelgono il tema della scuola, tutte e due con un gioco di parole. La Repubblica, scuola, lotta di classe. Non male. Il Manifesto, il mistero dell'istruzione. È così, oggi è il giorno dei calambur. Dei calambur. Altri si dedicano agli aspetti economici. Cassa integrazione più lunga ma non per tutti, titola Il Messaggero. La Stampa: lavoro, Conte rilancia, meno cassa integrazione, giù le tasse. Dove si segnala anche la fuga dal lavoro delle neomamme. In un anno 37.000 si sono licenziate. Il Quotidiano Nazionale sceglie le parole della Corte dei Conti: paese fermo, tagliate subito le tasse. Il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata alle banche, l'effetto Covid costa 12 miliardi e poi l'allarme del Fondo Monetario su PIL e lavoro, dal virus un colpo catastrofico. Il Fatto Quotidiano sul tema della riduzione dell'utilizzo dei contanti, la guerra al cash, dal 1 luglio il tetto scende da 3.000 a 2.000 euro. Contanti, saluti ai due Matteo, che sarebbero Salvini e Renzi. E poi qualcun altro invece apre sul virus, malati vicini ai 10 milioni, ci dice il Corriere della Sera. Il Giornale e Libero scelgono i profughi sbarcati dalla nave col virus. Sbarcano col virus, bomba immigrazione, il Giornale. Libero scrive: importiamo il virus, in Sicilia sbarcati 28 profughi infetti. E la Verità apre con la deputata PD alle COP migranti: datemi braccia per le elezioni. È un pezzo dell'inchiesta di Bergamo sull'associazione che si occupava appunto della sulla Caritas e l'inchiesta che riguarda la gestione dei migranti. E la storia di una deputata, Elena Carnevali, che ha richiesto aiuto per la confezione di alcuni e l'imbustamento di alcuni manifesti. Infine, Avvenire. Fa la scelta, una scelta diversa da tutti, sulla decisione della Corte Costituzionale di ieri, sugli invalidi. L'assegno da 285 euro, ha detto la Corte, è insufficiente per vivere, va aumentato. Il titolo è Invalidi, come tutti. E iniziamo, come sempre, da qualcosa che solo in parte troviamo nelle prime pagine, nel senso che questa vicenda, la vicenda di Mondragone, provincia di Caserta, la troviamo in prima pagina solamente sul Mattino, il quotidiano di Napoli, che poi porta dentro ad un'intera paginata che si compone di un pezzo di cronaca e di un reportage, perché i giornali sono tutti fermi a una Mondragone nella quale i casi di Covid-19 sono 9 in tutto, mentre invece il Mattino ci fa sapere con Pierluigi Benvenuti che i positivi al Covid-19 accertati nel focolaio dei palazzi Cirio a Mondragone ieri a tarda sera, il numero dei contagiati era arrivato a 40. Restano ancora poche decine di tamponi da esaminare sui 700 finora eseguiti. Lo screening di massa potrebbe continuare anche oggi, perché la sensazione è che molti occupanti degli appartamenti finora si siano addirittura sottratti ai controlli. E perché si sono sottratti ai controlli? Lo troviamo tutto nel reportage firmato da Maria Pirro, che ci racconta di questi palazzoni in provincia di Caserta, nei quali molte delle persone che risiedono là, ci sono anche alcuni italiani, ma molte delle persone che risiedono là sono dei braccianti immigrati che vanno a lavorare sotto caporale, con cifre, racconta Maria Pirro, che sono addirittura inferiori a quelle che pagano i caporali nel Foggiano. Questo per dare l'idea della miseria nella miseria, un luogo dove lavorano anche i minorenni. La paga per i braccianti è più bassa persino che a Rosarno, il paese calabrese diventato simbolo della rivolta degli immigrati contro i caporali. 3 euro all'ora per gli uomini, la metà le donne. 75 centesimi per gli under 18 o qualcosa in più per chi accetta un compenso a cassetta colma di pomodori, pesche, albicocche e fagiolini. Mia mamma riesce a guadagnare 35 euro, l'affitto è di 450 per tre camere, racconta un bimbo che invece frequenta la scuola ed è tra i pochi a parlare l'italiano. E i numeri che ci sono all'interno del pezzo firmato da Maria Pirro sono ancora diversi da quelli che troviamo nella cronaca, perché si parla di addirittura 19 positivi che sarebbero fuggiti ai controlli, perché che cosa fanno da questi palazzoni? Sfuggono via in qualche modo, riescono a transitare e vanno a lavorare, presumibilmente rischiando di infettare altre persone. Certo, sono asintomatici, ma la situazione in questi palazzi di Mondragone a Caserta è questa ed è francamente una situazione allucinante. Il virus è qua e quindi insomma prendiamo le pagine di Libero, le aperture di Libero del giornale, e per, lo dico con il rispetto per i colleghi di Libero del giornale, per quello che sono, insomma quello che abbiamo visto in questo periodo in Italia, ci fa dire che sì, insomma arriverà anche con i profughi che sbarcano dalla nave, dalla Moby Zaza, però insomma non possiamo dire che, no, che in Italia il virus non fosse presente, non fosse arrivato tramite altri fronti. Ovviamente, nelle zone più industrializzate del paese, tramite le regioni più globalizzate di questo paese. Detto ciò, il caso c'è oggettivamente e ne parlano ampiamente, come dicevo, il giornale Libero che ci aprono, il giornale, la sua cronaca è di Fausto Biloslavo a pagina 3 che titola così: la bomba migranti sull'epidemia, la nave quarantena con 28 positivi, tamponi ai 211 che Sea-Watch ha portato sulla Moby Zaza a Porto Empedocle. E la polizia che dice: noi siamo a rischio. Alla fine i talebani dell'accoglienza tedeschi sono riusciti a portare in Italia, così la mette Fausto Biloslavo, 28 migranti positivi al Covid-19 che hanno acceso un focolaio a bordo della nave traghetto Moby Zaza utilizzata come quarantena al largo della Sicilia. Ci sono riusciti nonostante sia ancora in vigore il decreto che chiude i porti italiani per motivi sanitari fino al 31 luglio. I contagiati fanno parte di un gruppo di 211 recuperati in mare la scorsa settimana da Sea-Watch 3 in tre diverse operazioni, due in acque di soccorso libiche che una maltese, però sono tutti arrivati in Italia. Una nuova nave della Ocean Viking, che può portare fino a 400 migranti, sta facendo intanto rotta verso la Libia, racconta dunque a pagina 3 Fausto Biloslavo sul giornale, raccontando di questo caso, la Moby Zaza, lo ricorderete, no? Ne abbiamo parlato ieri, vi abbiamo fatto sentire l'audio del viceministro Cancelleri, che è presente, che con i giornalisti che lo intervistavano diceva: vedete, il turismo in Sicilia sta tornando. Sta tornando, cioè, ce l'abbiamo, Carmelo, ce l'abbiamo. Ho visto che c'è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti, questo significa che ci sono prospettive. Dobbiamo cercare di migliorare ancora di più e far diventare questa cosa un'opportunità sempre maggiore. Sì, però peccato che la nave che indicava Cancelleri era esattamente la Moby Zaza, quindi non aveva nulla a che fare con il turismo. Però vabbè, poi tutto passa con una risata, gli dicono: guardi che è un traghetto, guardi che non trasporta turisti. Vabbè, così, una pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Il taglio dell'IVA darà l'illusione del calo dei prezzi. Se invece tagliassero l'aliquota IRPEF del 23%, che è quella del primo scaglione, forse rimarrebbero più soldi in tasca agli italiani e qualche consumo in più si vedrebbe. Ma lo capisce anche un bambino, eh? E sulle mascherine non sono d'accordo con te, perché il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in aprile, piena pandemia, in un ambiente chiuso, quando faceva le famose conferenze stampa, disse: io la mascherina non la porto perché sto a distanza di sicurezza, in un ambiente chiuso. Perciò se lo dice il capo della Protezione Civile, perché bisogna metterla noi, no? Basta, sta a distanza. Parlavo con un carissimo medico chirurgo al quale ho chiesto: ma com'è che voi portate le mascherine 8-10 ore al giorno, non vi fanno nulla e a noi invece ci danno solo dei problemi? La risposta è stata: noi le mascherine le cambiamo ogni 3 ore e le utilizziamo solo in ambienti asettici e sterilizzati costantemente. Quando sono fuori io non la metto mai, perché comunque fuori fa più danno che altro. Ma su questo, come sapete, ci sono il consiglio che viene dato generalmente è un altro, però tanto, guarda, tanto l'obbligo all'aperto cadrà tra poco, presumibilmente anche in Lombardia, forse addirittura entro la fine di questa settimana, vedremo. Ampio capitolo dedicato alla giustizia, ampio capitolo dedicato alla giustizia su una serie di fronti. Il primo è quello delle inchieste giudiziarie, quelle sulla corruzione. Ci siamo occupati dell'azienda dei trasporti milanesi e dei segnali che sono arrivati. Ne abbiamo parlato anche ieri alle 8:20 con Maria Latella, i nostri ospiti, Gerardo Colombo, il presidente dell'ANAC. Partendo da quella vicenda, e qua c'è qualche evoluzione, come ci racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, a pagina 23 i magistrati hanno trovato nella casa del principale indagato e arrestato, Paolo Bellini, l'uomo il responsabile dell'automazione della metropolitana, hanno trovato 17.000 euro in contanti in casa e altri 50.000 alla IVM, una delle due società di cui si definiva socio occulto e che usava, stando ai magistrati, per ottenere subappalti dalle imprese che facilitava nelle gare, un totale di 67.000 euro in contanti. Qualche sospetto lo fa venire, massimo garantismo, ma qualche sospetto lo fa venire. Così come un'inchiesta adesso coinvolge invece il Comune di Roma, dove lo racconta nella maniera più ampia il Messaggero, a pagina 15, la vicenda delle tangenti per sanare gli abusi. Ci sono stati 6 arresti al Comune di Roma, avevano messo in piedi, scrive Michela Allegri, un ufficio parallelo che su commissione e illegalmente gestiva le pratiche di condono edilizio del Comune di Roma, o meglio, le manipolava con un ricamino per conto di clienti disposti ad allungare mazzette che in cambio avrebbero risparmiato montagne di denaro. E adesso, con accuse che vanno dalla corruzione al falso fino alla truffa, 6 persone sono finite ai domiciliari e uno un funzionario del Campidoglio. Mancati introiti per il Comune di Roma nell'ordine dei 56 milioni di euro, per darvi una dimensione di quanto può costare, perché poi vedremo se questa inchiesta arriverà a conclusione, quanto può costare la corruzione. Messaggero che presenta anche un'intervista con Cosimo Damiano Apostolo. Chi è Cosimo Damiano Apostolo? Generale di divisione in congedo dei Carabinieri, ha diretto per 6 anni dal 2010 al 2016 l'ufficio condono di Roma Capitale e poi è l'uomo che ha denunciato proprio nel 2016. Ho fatto il carabiniere in Puglia, c'era la Sacra Corona Unita, si figuri, ma minacce di morte così, addirittura contro la mia famiglia, le hanno fatte solo questi signori, racconta. E quindi Cosimo Damiano Apostolo, che dice: non mi sento l'eroe del giorno, ho fatto il mio dovere, lì dentro ho solo provato a mettere regole di comportamento con un'attività severa di controlli interni, dice: da queste persone ho ricevuto minacce di morte. E visto che siamo sui temi della giustizia, c'è innanzitutto da ricordare, molti quotidiani lo fanno, lo fa con un bellissimo pezzo Giuliano Ferrara sul Foglio, lo fa con un altrettanto bel pezzo Goffredo Buccini a pagina 17 del Corriere della Sera, Alfredo Biondi che è morto ieri, per chi non se lo ricordasse è stato ministro della giustizia nel governo Berlusconi nel 1994, protagonista di uno scontro memorabile con il pool di Milano, quello che si occupò di Mani Pulite, e un vero liberale, un vero liberale. E nel pezzo di Goffredo Buccini si cita proprio una frase di Biondi, dice: i liberali sono come i tergicristalli, disse 10 anni fa, quando già la storia stava voltando pagina. E da liberale spiegò a Luca Telese la propria dimensione di dialettica interiore, dubbiosa e così lontana da quelli nati con le certezze delle ideologie. Sì, no, sì, no. Un tergicristallo, appunto. E c'è un racconto in questo pezzo di Goffredo Buccini dell'ultima fase dello scontro con il pool di Mani Pulite. Se ne uscì con una battutaccia da ministro della giustizia. Dalle mie parti si diceva: studia figlio mio o diventerai pubblico ministero. Il procuratore Borrelli, un timido che aveva imparato a usare la timidezza come arma, gli rispose d'impeto e a stretto giro di intervista. In un'ora pericolosamente tarda del pomeriggio s'è concesso una battuta di troppo, dandogli in sostanza del beone. Biondi, furioso, si dimise da ministro. Ci volle la moral suasion di Scalfaro per indurlo a ripensarci. Dopo 26 anni, scrive giustamente Buccini, e questo è il passaggio bello, no? Dopo 26 anni, scoprendoci molti gradini più in basso nel dibattito pubblico, quel duello che fece scalpore sembra fioretto. I suoi protagonisti non ci sono più, ma entrambi ci apparirebbero preziose risorse della Repubblica in un paese espugnato ai suoi massimi livelli dall'ignoranza e dal bullismo. E chissà, forse si capirebbero persino. Fatemi chiudere infine con un piccolo giornale, che è il Riformista, che oggi presenta una intervista a Luca Palamara che vi dà un po' e dà un po' a tutti la dimensione di quello che è successo nella magistratura in questi anni. Gli chiede il giornalista innanzitutto dell'ambizione a fare il pubblico ministero, perché i magistrati vogliono fare i pubblici ministeri. Risponde Palamara: i PM sono i front runner della magistratura, a torto o a ragione è così. Il PM è un ruolo di potere grandissimo, rappresenta la pubblica accusa, ma è un magistrato. Ha il controllo pieno della polizia giudiziaria e penso che chiunque comprenda cosa significa avere il controllo della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, vuol dire scegliere a quale forza di polizia far fare le indagini, dettarne i tempi, stabilire i criteri di priorità. E poi ci sono i giornalisti. E Palamara risponde: il procuratore è l'unico titolato ad avere i rapporti con la stampa, la sapiente gestione degli organi di informazione assicura la gran cassa mediatica e la conseguente visibilità. Quindi molto, molto libero Palamara nel dire queste cose. E gli chiedono anche della questione delle correnti. Le correnti da luogo di elaborazione culturale sono ora soggetti politici che si comportano come tali. Risponde Palamara: vuoi il mio voto? Cosa mi dai in cambio a rappresentare qual è il modello? Sì, questo, che dice il giornalista, il sistema è andato in tilt per tutti, anche per le correnti maggiormente ideologizzate. Ovvio che se devo scegliere un magistrato per un incarico, devo anche tener conto di chi mi ha dato il voto. Cerchiamo di non essere ipocriti. Traffico. Mattino. Caro direttore Fabio Tamburini, come stai? Buongiorno, eccoci, buon giovedì. Benissimo, grazie. Allora, iniziamo, direttore nostro del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Inizierei da queste previsioni preoccupanti, Fabio, delle quali riportiamo in prima pagina: allarme del Fondo Monetario su prodotto interno lordo e lavoro, dal virus un colpo catastrofico, insomma un calo del PIL del 13% prevede il Fondo. Anche se il ministro Gualtieri dice: no, calma, forse stanno un po' esagerando. Ma io credo di essere abbastanza d'accordo con Gualtieri, con il ministro. Certo, il momento per l'economia è molto difficile, ma io penso che alla fine ci siano tutte le condizioni per una ripresa significativa, per una ripresa forte, a una condizione, e cioè che davvero il virus molli la presa. E purtroppo credo che sia presto per cantare vittoria, perché certamente la situazione in Europa e anche in Italia è davvero migliorata, niente a che vedere con la situazione di qualche mese fa. Tuttavia nel resto del mondo tira un'aria diversa. i dati che arrivano dall'America Latina, dagli stessi Stati Uniti, dalla Russia, sono davvero sconfortanti. E questa credo che sia l'incognita maggiore, perché se davvero la pandemia continuerà a fare danni, allora io temo che gli scenari descritti dal Fondo Monetario non siano troppo pessimisti, ma siano realisti, ecco, e questo sarebbe un po' un guaio. Veniamo all'apertura sulle 24 ore di oggi, che ci porta sugli effetti della pandemia sulle banche e conseguentemente, come ovvio, quando parliamo di banche parliamo non solamente, no, di attori importanti nel sistema economico, fondamentali nel sistema economico, ma anche di chi poi rifornisce le imprese e i cittadini di liquidità per poter andare avanti. Un costo da 12 miliardi, ci raccontano Luca Davi e Alessandro Graziani oggi. Finora il sistema bancario ha retto, c'è una grande diversità rispetto alla crisi del 2008-2011, all'epoca fu la finanza ad andare in crisi e i mali della finanza e delle banche si trasmisero all'economia reale. Adesso la pandemia ha messo in crisi le imprese, ma le banche, il sistema bancario, la finanza per ora ha retto molto bene. Certo che è chiaro che se le imprese vanno in difficoltà, tutti gli NPL, che poi i cosiddetti NPL, che sono i crediti deteriorati, tendono ad aumentare e quindi si gioca una partita complicata, perché a questo punto il sistema bancario e le banche devono fare i conti con dei crediti che non riescono più a incassare. Che Dio ce la mandi buona. Senti, nel frattempo, Fabio, il governo sta ragionando e sta discutendo sulle tasse, cosa tagliare, come, quando, sul piatto la proposta del Presidente del Consiglio Conte, il quale pare insistere su questa questione del taglio dell'IVA. Dall'altra parte la pressione del Partito Democratico e del Ministro dell'Economia per andare invece sul costo del lavoro, discussione aperta, abbastanza standard devo dire, è sempre più o meno sempre di questo si discute. Sarà standard, ma permettetemi, è anche piuttosto sconcertante. In un mondo normale il governo discute al suo interno, fa una scelta e poi si muove compatto per raggiungere l'obiettivo. Qui nei giorni scorsi e tuttora abbiamo delle posizioni che divaricano in modo significativo: il Premier Conte che vuole tagliare l'IVA, il Ministro Gualtieri, peraltro a una giornata sul fisco organizzata da Sole 24 Ore, ha detto che sarebbe un errore, perché è molto meglio tagliare il cuneo fiscale e il costo del lavoro. Insomma, arrivano dal governo indicazioni contrapposte. Così non va bene, non va bene, perché si semina incertezza. Il dualismo deve essere tra governo e opposizione, non può essere manifestamente all'interno del governo con posizioni contrapposte. Beh, così non si va da nessuna parte. E l'emergenza economica che è subentrata all'emergenza sanitaria richiede idee chiare, magari poche idee, ma chiare. Qui siamo a tante dichiarazioni molto confuse. Siamo in chiusura, prima di chiudere vi voglio ricordare che non sappiamo ancora come si tornerà a scuola a settembre, non sappiamo nemmeno come inizierà il prossimo anno accademico. Nel frattempo però, se dovete scegliere a che facoltà iscriversi, beh, c'è la guida oggi col Sole 24 Ore, la guida all'università, la guida alla scelta delle facoltà, corsi, test e borse di studio, lo trovate appunto oggi con il Sole 24 Ore. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata. Leggete, informatevi e iscrivetevi per quanto possibile all'università. Studiare, studiare, studiare, soltanto così il paese andrà avanti. Grazie Fabio. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, i nostri ospiti, parleremo di turismo, poi avremo ospite Marco Bentivoglia, la Film CISL, oggi la manifestazione dei metalmeccanici, e poi le minacce allo stesso Bentivoglia, tra poco.